Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi partiamo dal tema delle fonti rinnovabili. Infatti la Commissione europea ha dato il via libera al piano messo a punto dall'Italia per incentivare la produzione di energia elettrica appunto da fonti rinnovabili. Gli interventi previsti per Bruxelles sono conformi alle norme UE sugli aiuti di Stato. Il sistema di interventi, dice Bruxelles, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione Europea. Insomma, cominciamo da una buona notizia, invece una notizia neutra in sé che però riguarda un tema delicato. La Commissione UE ha dato sempre oggi il via libera alla proroga del termine entro il quale dovranno essere vendute le nuove quattro banche nate dalla ristrutturazione della Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti. Lo ha reso noto la stessa Commissione precisando che l'operazione è in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. E ora cambiamo completamente argomento, parliamo di treni, ci racconta tutto Laura Bettini. Quando nel 2014 Juncker presentò al Parlamento il piano di investimenti della Commissione che presiede, assegnò al settore dei trasporti un'importanza prioritaria, evidenziando la necessità di adottare con urgenza il quarto pacchetto ferroviario e consolidare un mercato di dimensione europea. I diversi Stati membri hanno infatti norme di sicurezza e sistemi tecnici differenti e ciascuno ha un'autorità nazionale di riferimento, il che ha reso complicato e costoso l'ingresso nel mercato ferroviario di nuovi operatori ferroviari, ma anche l'introduzione di nuove attrezzature tecniche e la riduzione dei costi per chi utilizza le ferrovie. Ora forse si cambierà. Il via libera politico alla riforma arrivato dagli ambasciatori dei 28 paesi europei è stato seguito ieri dall'ok del Parlamento europeo al pilastro tecnico del piano Juncker per la liberalizzazione ferroviaria. È soddisfatta, ma non fino in fondo, Karima Delli, parlamentare europea francese dei Verdi. I grandi operatori, dice, sono comunque favoriti. E in un sistema più competitivo non è detto che i passeggeri ci guadagnino, perché i servizi andranno là dove c'è più mercato. Forse non sarà per tutte le destinazioni, ma comunque il treno low cost arriverà. Ma non prima della fine del 2019, se tutto andrà secondo le previsioni. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Infine, la grande crisi della migrazione. Ci sono sviluppi non solo sul Brennero, ma anche sul fronte UE-Turchia. L'accordo raggiunto con la Turchia dall'Unione Europea quest'estate potrebbe spingere molti migranti a cercare di raggiungere l'Europa attraversando il Mediterraneo dalla Libia verso l'Italia, un'eventualità che preoccupa il ministro dell'interno tedesco De Masier, che oggi ha incontrato a Potsdam il suo omologo austriaco Sobotka. L'Italia è ben lontana dall'essere sopraffatta dai migranti, deve fare di più per difendere le sue frontiere marittime meridionali e deve anche trattare con il nuovo governo libico, ha aggiunto De Masier. Sobotka, che ieri a Roma ha incontrato Angelino Alfano, ha invece spiegato che al Brennero i lavori per la realizzazione degli impianti alla frontiera continueranno, ma non verranno introdotte barriere fino a quando la situazione non lo richiederà. Sul Brennero è tornato anche il nostro ministro dell'Interno. L'Italia non è certo un paese che si fa spaventare da un gabbiotto, ha detto stamattina Alfano, aggiungendo che si sta lavorando con impegno per controllare gli itinerari italiani che portano al Brennero affinché non vi sia né il motivo, né la scusa, né il pretesto per costruire quel muro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto, cari ascoltatori. Un saluto da Gigi Donelli. L'appuntamento con Europa 24 è per lunedì prossimo. Un ottimo fine settimana. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.